Diciamo che per la prima volta ai piedi del podio nella nostra storia del nuoto sincronizzato, e quindi veramente anche dopo con le più grandi positività, non ce lo saremmo mai aspettato così. Sono molto molto contenta. Lei veramente ha nuotato tanto meglio rispetto a quello che ha fatto a qualunque altra gara. Io sono contenta, vuol dire che il lavoro alla fine l'ha assorbito e si è visto. In questi giorni sentiamo che gli atleti dello sport del nuoto sincronizzato, dei tuffi, si lamentano per le difficoltà del sistema sportivo italiano, no? Ma come siete riusciti in qualche modo anche a colmare questo gap rispetto alle grandi potenze di questo sport? Come tutti abbiamo avuto anche noi le piccole difficoltà. Devo dire che siamo andati in Sierra Nevada in un collegiale a marzo, dove veramente abbiamo avuto delle ottime condizioni di lavoro, e poi quando siamo tornati, anche devo dire da marzo in poi, abbiamo lavorato discretamente bene. Certo, probabilmente dopo questo campionato del mondo non ne avremo più di difficoltà, per fortuna. Ecco, quanto pesa Roma 2009 nella piccola storia del piccola, speriamo grande, storia del nuoto sincronizzato italiano? Ma adesso per ora non lo sappiamo, noi confidiamo nell'avere veramente delle grosse possibilità l'anno prossimo, e quindi ci siamo sacrificate, abbiamo lavorato magari in maniera un pochino ristretta ma comunque intensa quest'anno per ottenere un buon risultato.